Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parla di Rebus, il centro studi di Confindustria, nel fornire le stime, le previsioni per il PIL italiano, le rivede al ribasso rispetto al più 1%, quest'anno non andremo oltre lo 0,8%, mentre un leggero ribasso è anche nel 2016, dall'1,5% all'1,4%, però il Rebus non è dedicato a questo, è dedicato, leggo testualmente, al fatto che il vero Rebus è il mancato decollo dell'economia italiana, nonostante il contesto esterno sia il più favorevole possibile. Traduco, ossia, attenzione che se non aumentiamo i tassi di crescita con un petrolio sotto vicino ai 40 dollari, i tassi di interesse quasi a zero, l'euro comunque indebolito sul dollaro, vedremo stasera, ne parleremo, cosa succederà con la Federal Reserve, ma insomma oggi l'euro è da qualche giorno che è tornato a quota 1,09, ma insomma siamo sempre sotto quota 1,1, mettiamola così. Ebbene, se non cresci un po' di più adesso, attenzione che c'è qualcosa che non funziona, un rebus, dice Confindustria, e chiederemo al curatore del rapporto di che rebus si tratti. Faccio anche notare che nel rapporto si individua come oltre la metà del reddito di una famiglia che paga le tasse vada al fisco, praticamente il 54,9% di una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio solo in età scolare dà al fisco, tra contributi sociali, imposte dirette e indirette, il 54,9%. È una simulazione analizzando una famiglia che ha già una casa di proprietà, per cui stiamo parlando di una famiglia con un figlio e una casa di proprietà. Non capita a tutti, nel senso che alcune famiglie per volontà loro hanno più di un figlio e non tutti hanno la casa di proprietà, soprattutto quando sei magari una famiglia giovane e i figli sono giovani. Ancora la Confindustria nota però che sebbene la pressione fiscale sia leggermente calata e soprattutto andrà nel 2017 al 43,2%, livello più basso dal 2011 come PIL, fa notare che l'evasione italiana blocca lo sviluppo economico e civile. Qualcuno mi diceva: ma non è vero che c'è l'evasione? Chi è che mi ha detto? 122 miliardi di euro nel 2015, pari al 7,5%, quindi vuol dire che vengono sottratti al fisco quasi 40 miliardi di IVA, 23 miliardi e mezzo di IRPEF, 5 miliardi di IRES, 3 miliardi di IRAP, altri 16 miliardi di imposte indirette e 34, quasi 35 miliardi di contributi previdenziali. Se questo ammontare da 122 miliardi venisse dimezzato, cioè continuassimo a evadere come paese, ma della metà, andando su livelli più vicini a Francia e Spagna, cioè a 60 miliardi, saremmo ancora con una bella evasione, 60 miliardi di evasione all'anno, ebbene si avrebbe un incremento del 3% del PIL e oltre 335 mila occupati aggiuntivi. Poi la Confindustria è più ottimista di altri sulla creazione di posti di lavoro. Nel 2015-2017 verranno creati 650.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione scenderà all'11,1%, ma ripeto, il titolo è il rebus del perché l'Italia, nonostante tutte le condizioni del campo da gioco a suo favore, come per altri paesi, non stia ripartendo con intensità. Lo stesso presidente di Confindustria Squinzi, nel commentare i dati, ha detto: la crescita stenta, il paese continua in una fase di stentata crescita, migliora la percezione e l'ottimismo dei consumatori, ma serve uno scatto netto, bruciante, che non c'è ancora. E poi ha definito il peggior concorrente chi non paga le tasse. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi sempre anche su Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore Salvatore Padula. Engie fa volare la tua impresa. Due volte leggero è l'offerta elettricità e gas che riduce il prezzo dell'energia ogni 8 mesi. Scoprila su engie.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. L'evasione fiscale e contributiva vale in Italia più di 122 miliardi di euro. Non stiamo parlando del valore dell'economia sommersa, parliamo proprio della quantità di tasse e di contributi che ogni anno sfuggono al fisco, che non vengono pagati, che appunto vengono evasi. Lo dice l'ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria sull'evoluzione degli scenari economici. Un rapporto che dedica all'evasione un capitolo importante. Il totale di imposte e contributi evasi equivale al 7,5% del PIL. L'IVA è l'imposta più evasa, circa 40 miliardi di euro ogni anno, seguita dai contributi previdenziali, ne sfuggono quasi 35 miliardi all'anno, e poi via via tutte le altre voci per arrivare appunto al totale di 122 miliardi. Per Confindustria basterebbe dimezzare questa voragine per aumentare del 3,1% il PIL e per creare 335.000 posti di lavoro. Insomma, combattere l'evasione fiscale farebbe bene al paese, farebbe bene a tutti, ed è chiaro che la lotta all'evasione è fondamentale per il risanamento e per la rinascita strutturale dell'economia italiana. A questo punto una domanda ovvia: stiamo facendo abbastanza per contrastare l'evasione fiscale? Forse altrettanto scontata, ma non troppo, anche la risposta. Con un'evasione così elevata è necessario fare molto di più. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Le altre notizie in breve, è chiaro che, o meglio, le altre notizie di questa giornata, è chiaro che ci occuperemo della Federal Reserve questa sera alle 20, ora italiana, l'attesissima ma anche annunciatissima decisione sui tassi per la prima volta quindi da 9 anni, e cioè questo sarà anche simbolicamente, oltre che dal punto di vista monetario, il segnale, la parola definitiva, quindi la parola fine alla crisi scoppiata nel 2008. Perché? Perché l'ultimo aumento risale al 2006, il livello dei tassi di interesse americani, del costo del denaro a stelle strisce, è fermo da dicembre del 2008, quando fu portato praticamente a zero dopo il crack di Lehman Brothers, e per gli Stati Uniti significa appunto anche a livello simbolico, non solo monetario, l'uscita definitiva da tutto quel periodo, la ripresa di un atteggiamento più normale nei confronti della politica monetaria e dell'economia. Loro se lo possono permettere perché il loro quantitative easing, quindi lo stampaggio di moneta americano, statunitense, è stato accompagnato da un aumento degli investimenti anche del settore pubblico, quindi il denaro, i dollari stampati venivano poi assorbiti anche dagli interventi di carattere pubblico e statale. Da noi non sta funzionando per un piccolo motivo, che è un tavolo senza una gamba, cioè Mario Draghi stampa moneta, acquisti titoli di Stato, stampa moneta. Il problema è che siccome noi abbiamo i famosi vincoli un pochino alleggeriti del patto di stabilità, questa moneta non viene poi assorbita anche dagli investimenti dei singoli paesi o da investimenti europei di carattere infrastrutturale, quindi serve all'economia, resta lì a galleggiare. Chi la riceve non sa cosa farne, le banche non prestano soldi alle imprese se non quelle già messe bene, quindi vai a rischio di creare una nuova bolla, quindi la trappola della liquidità, ma non di aiutare veramente l'economia, perché negli Stati Uniti hanno fatto le due cose: stampi dollari e fai investimenti, stampi dollari e fai investimenti. In Europa stampi euro, ma diciamo i rigoristi non vogliono l'aumento degli investimenti pubblici. Ancora due notizie sull'Italia, per quello che riguarda, sempre notizie in breve, da un lato c'è un'agenzia Reuters che analizza i dati dell'Istat sugli occupati da inizio anno ottobre. Sono stati creati 83.000 posti di lavoro. Fa notare però l'agenzia Reuters che nello stesso periodo del 2014, con le vecchie regole, il numero di posti di lavoro era cresciuto di 174.000, più del doppio. E questa è la prima, diciamo, il primo elemento che va contro la narrazione del governo, visto che ormai tutti parlano di storytelling e di narrazione, lo facciamo anche noi. Ancora, secondo poi l'INPS, sono appena 2.000 da dicembre 2014 i nuovi, secondo l'Istat, i nuovi posti di lavoro stabili, ma quello che si nota è che i contratti a termine, che la riforma del Jobs Act avrebbe dovuto scoraggiare, sono invece aumentati di 178.000 da inizio anno fino a ottobre 2015 e di 190.000 da marzo. In realtà bisognerà aspettare a questo punto il consuntivo di tutto il 2015, ma quello che sta emergendo è che ha avuto più effetto la decontribuzione del Jobs Act, e comunque che il dato univoco, e quindi con un'unica interpretazione su quello che è stato l'effetto di Jobs Act e decontribuzione, non c'è in questo momento ancora. Non si può dire che è chiaramente stato c'è un miglioramento, sono stati creati posti di lavoro, ma dire quanto è stato l'effetto del Jobs Act e della decontribuzione è ancora presto. Se lo dico perché ascolto nei vari interventi un po' di tutto, no? Stiamo sui numeri e sulle cifre. Il tetto dei 1000 euro nel pagamento dei pagamenti delle pensioni resta, nel senso che un emendamento alla legge di stabilità approvato ieri prevede che appunto per il pagamento delle pensioni in contanti resti il tetto a 1000 euro. Si mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati superiore a 1000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Allora, io voglio dire una cosa però adesso, perché su questa cosa dei 3000 euro è un pasticcio. Si è detto che si innalzava il tetto del contante da 1.000 a 3.000 euro anche perché le povere vecchiette, sempre queste vecchiette tirate per il cappotto ogni volta che fa comodo, se no erano obbligate tutte ad aprire un conto corrente in banca. Ebbene, l'unico tetto che resta invariato dei 1.000 euro è quello proprio per i pensionati e pensionate che oltre 1.000 euro dovranno avere un conto corrente in banca. A questo punto non si capisce perché portarlo a 3.000, e visto che parlavamo di evasione fiscale non lo si capisce se non come un regalo a chi ama il nero. Ci siamo su questo? E smettiamola per favore, almeno per rispetto verso gli anziani, di citare sempre ste vecchiette, che come ci ha scritto una signora anziana, ha detto: ma scusatemi, secondo voi proprio io che ho 78 anni giro con 5.000 euro o 3.000 euro in contanti, che ho paura di essere scippata? Io sono la prima a usare il bancomat e vi assicuro che pur essendo anziana ce la faccio a usare il bancomat. È quasi offensivo che continuate a descriverci come delle minus abens. Ha ragione la signora, se c'è una persona, una categoria che può avere interesse a usare il bancomat e la carta di credito, è proprio quella di chi ha il timore di essere scippato, di subire un furto, no? E resta il dubbio a chi serviranno i 3.000 euro in contanti. Sapete. Va bene, l'agroalimentare va bene nella spesa degli italiani per la tavola in vista del Natale, più 6% stima la Coldiretti. Un terzo del budget per le feste se ne va proprio in cibo nel settore agroalimentare. Ancora, per quello che riguarda notizie di cronaca, è stato da un certo punto, parleremo anche della vicenda Ligresti adesso dopo il primo approfondimento, Paolo Ligresti assolto, ma nel frattempo sono arrivati anche gli arresti di 7 funzionari. Perché dunque i 7 funzionari sono a Roma, sostanzialmente l'accusa è di aver ricevuto mazzette per chiudere un occhio sulla regolare esecuzione dei lavori di manutenzione di strade e infrastrutture. 33 le gare d'appalto finite nel minore della Procura di Roma l'arresto da parte dei carabinieri di 7 funzionari pubblici, 18 le persone indagate, 16 milioni di valore degli appalti su cui sarebbero stati pagati in 2 anni 650.000 euro di tangenti. Secondo la procura, tutto lascia pensare che il sistema coinvolga gran parte delle imprese che operano nel settore. Gli arresti sono stati effettuati per evitare il rischio di recidiva anche in considerazione dei lavori per il Giubileo. E poi vedo che alcuni ci dicono: è il quinto GR che ascolto e non avete dato la notizia che è morto Licio Gelli. Guardi, funziona un po' così. La radio, le notizie fresche dalla mattina. Stamattina avevamo non solo notizie, ma anche un ritratto di chi era, ahimè, e di cos'è stato, ahimè, Licio Gelli in questo paese. E non solo, l'abbiamo dato tutto il giorno, c'è stato l'approfondimento anche in effetto giorno. Capisco che se ascolta gli ultimi 3 GR, nel frattempo le notizie evolvono, vanno avanti, ce ne sono di nuove, se no sarebbe troppo facile. Faremo un copia e incolla del GR delle 7 e lo riproporremo in tutte le edizioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo allora dal question time di oggi alla Camera del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Il tema chiaramente era banche, sistema bancario, prodotti bancari e danno ai risparmiatori. Allora, intanto partiamo dall'alto, cioè il completamento dell'Unione Bancaria Europea non farà concreti passi avanti dopo il vertice dell'Unione Europea stessa. È infatti sparita la frase che invitava nella bozza delle conclusioni a lavorare ulteriormente per ridurre i rischi nel settore bancario con la graduale introduzione dello schema europeo di assicurazione dei depositi. Uno schema fortemente appoggiato da Italia e Francia, ma è sparito il riferimento per l'opposizione della Germania. Io non è che voglio fare ogni volta la battuta sulla Germania, però prima si sono salvate le banche, no? 244 miliardi di euro, e poi adesso fanno i rigoristi con le banche degli altri. È facile fare i rigoristi con le banche degli altri. Nel frattempo Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, ha confermato di avere presentato oggi come centrodestra unito la mozione di sfiducia al governo, che chiederemo alla capigruppo delle 17 di calendarizzare al più presto. In realtà, da quello che abbiamo capito, l'opposizione, che fa il suo lavoro, non vuole arrivare a una verifica il prima possibile, vuole mantenere invece alta la tensione sulla vicenda che coinvolge il ministro Boschi, mentre il premier Matteo Renzi ha scritto che ieri che la polemica sul conflitto di interesse del governo del ministro Boschi è tecnicamente assurda. Noi abbiamo mandato a casa l'intero CDA in cui c'era il padre di Boschi. Il CDA è stato sanzionato e il padre di Boschi ha pagato una sanzione. La legge è uguale per tutti, è finito il tempo della legge ad persona. Questa però bisogna un po' verificarla bene, perché da quello che ho letto io nelle ricostruzioni, il padre della Boschi fu multato, e come, dalla Banca d'Italia, 125.000 euro, in quanto membro del CDA. Dopodiché fu richiamato nei giorni in cui si insediava il governo Renzi a diventare vicepresidente, e già lì uno può dire: per opportunità, se ti hanno sanzionato, se la Banca d'Italia con i suoi ispettori ti ha sanzionato per come hai fatto il consigliere di amministrazione e tua figlia sta diventando ministro della Repubblica, forse non ci vuole un genio per capire che non ti converrebbe prendere la vicepresidenza di una banca messa male, perché lo sai che è messa male, e di cui sulla cui gestione in quanto consigliere di amministrazione sei già stato multato dagli ispettori della Banca d'Italia. Ma tant'è, rivendica oggi Renzi che la commissione d'inchiesta chiarirà le responsabilità degli ultimi 10 anni. Noi non c'eravamo, mentre ci sono partiti che si sono fatti le banche e ci sono state realtà pazzesche. Non abbiamo deciso meno poltrone, noi abbiamo deciso meno poltrone, meno CDA, non guardiamo in faccia nessuno. Il ministro Boschi è sotto richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni su un presunto conflitto di interessi. Io parlo di questo, non di altro. Questo presunto conflitto di interessi è chiaramente falso, perché il padre del ministro Boschi, che ha avuto per 8 mesi una responsabilità nella Banca Etruria, in una delle 4 banche, è stato commissariato dal nostro governo. Cioè, se ci fosse stato un favoritismo, il padre del ministro Boschi lo avremmo, tra virgolette, tutelato, lo avremmo difeso. Ecco, noi l'abbiamo mandato a casa, mica solo lui, tutto il consiglio d'amministrazione. Ma il nostro governo è talmente trasparente che quel consiglio d'amministrazione è andato a casa. Il padre del ministro Boschi è stato sanzionato da Banca d'Italia, altro che favoritismi o garantismi, e il ministro Boschi stesso aveva, da quello che abbiamo capito dalla sua dichiarazione che ha reso pubblica come correttamente prescrive la legge, un valore di qualche migliaio di euro di azioni di Banca Etruria che ha perso come tutti gli altri azionisti di Banca Etruria, il cui valore è stato azzerato. Da un lato c'è chi cerca i colpevoli e dall'altro c'è chi cerca le soluzioni. Io potrei farle un libro su questi, faremo una commissione parlamentare d'inchiesta su questi 10 anni. Noi non c'eravamo. Ci sono dei partiti che si sono fatti le banche, i partiti, poi sono fallite le banche e prima o poi falliranno anche i partiti, ma hanno fatto le banche di partito. Ci sono delle realtà in questi 10 anni nella storia delle banche pazzesche. Noi siamo arrivati e abbiamo detto meno poltrone, via, meno consigli di amministrazioni, accorpare, e ci hanno persino accusato quando abbiamo fatto il decreto sulle popolari. Per dare a Cesare quel che è di Cesare, è vero che il governo è stato il governo che ha, nonostante le proteste del mondo dei popolari, che adesso stanno ben zitte nel rivendicare una diversità etica rispetto alle SPA, perché si è visto che di diversità etica non c'era nulla in alcune popolari, insomma, è vero che il governo Renzi è quello che ha trasformato le banche popolari in SPA, le ha rese contendibili, ha elevato il voto capitario, la soglia alla quota di possesso, e da lì infatti partirà, ed è partito già tutto il ragionamento sul risico bancario, chi si sposerà con chi farà da marito, chi porterà, che cosa porterà in dote, perché nel momento in cui tu le trasformi in SPA diventano contendibili e lì partono gli accorpamenti. Questo è assolutamente innegabile. Il ministro Padoan in audizione oggi ha detto che nella vicenda delle quattro banche le autorità di vigilanza hanno svolto i loro compiti con efficacia, quindi sia Consob che Banca d'Italia. Si deve proprio all'azione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, l'accertamento nei casi delle quattro banche del deterioramento della situazione economico-finanziaria e della responsabilità degli amministratori. L'autorità di vigilanza ha svolto i compiti con efficacia, intervenendo con tutti i poteri che l'ordinamento le conferisce. L'esito della crisi delle quattro banche è stato l'avvio della risoluzione, procedura ritenuta nettamente preferibile alla liquidazione coatta amministrativa, unica altra alternativa veramente disponibile. Le conseguenze della liquidazione sarebbero infatti state disastrose per i clienti, per i risparmiatori, per il tessuto economico dei territori interessati, per i dipendenti. E benché le quattro banche interessate costituiscano una quota molto ridotta del mercato, appena l'1%, una liquidazione avrebbe potuto avere effetti sulla fiducia dei cittadini con rischi di natura sistemica, senza considerare che il fondo di garanzia dei depositanti avrebbe dovuto rimborsare i depositanti protetti con oneri per oltre 12 miliardi di euro. Gli effetti dell'intervento hanno quindi salvaguardato circa 1 milione fra depositanti obbligazionisti senior, 200.000 piccole e medie imprese, che avrebbero perso in modo pressoché istantaneo il loro fornitore di credito e servizi finanziari, 6.000 posti di lavoro diretti nelle banche, oltre ad almeno un altro migliaio di indotto, per non parlare degli effetti sistemici e indotti su una decina di province fra le più dinamiche del Paese. La procedura di risoluzione ha permesso una profonda pulizia dei bilanci delle banche, che le ha rese di nuovo solide e pienamente operative. E poi il ministro è intervenuto anche sui punti di divergenza tra la posizione italiana e quella europea. Fra pochissimo parleremo con chi ha una grossissima responsabilità in Cari Ferrara. Voi dite, ecco, l'avete... No, è la nuova Cari Ferrara. Con chi è indagato ed è sotto inchiesta parlano i magistrati. Mi riferisco appunto al presidente del collegio sindacale della nuova Cari Ferrara. Però ascoltiamo un secondo anche Padoan, perché il tema dell'Europa, qua ci sono due fronti: come hanno lavorato le nostre autorità di vigilanza, che cosa Banca Italia e Consob hanno detto o non detto al governo, come si è mosso il governo, il ruolo poi, insomma, se vi sia o meno conflitto di interessi per il ministro Boschi, e poi c'è il fronte con l'Europa. Io non mollo quel calcolo. A me, quando vedo che la Germania si oppone a mettere delle forme di assicurazione sui depositi che Francia e Italia chiedono perché ha paura di pagare il conto per noi, ma non ha avuto problemi a utilizzare i soldi dei tedeschi per salvare le sue banche, mi girano fortemente le scatole, perché almeno ai tedeschi non si chiede la flessibilità, non ce l'hanno mai avuta, né la creatività, ma la coerenza sì, la coerenza sì. Tu non puoi salvare, fare il più grosso salvataggio dopo quello britannico delle banche di un paese che fa impallidire quello francese, quello spagnolo, quello austriaco, quello olandese. L'Italia non ha fatto nulla, e poi adesso fare il rigorista, i rigoristi con i rigori degli altri. Padoan sulla posizione europea. Bisogna chiarire che inizialmente era stato sottoposto alla Commissione europea un progetto che in effetti prevedeva la ricapitalizzazione delle banche da parte del Fondo di garanzia dei depositanti. La Commissione non aveva sollevato dubbi sotto il profilo della compatibilità con il quadro degli aiuti di Stato. Tuttavia, il fatto che l'intervento del Fondo sia assimilato a un intervento dello Stato avrebbe comunque comportato l'avvio di una risoluzione. In sintesi, il progetto di ricapitalizzazione da parte del Fondo interbancario, seppure in linea con le regole sugli aiuti di Stato, non era ritenuto compatibile con la disciplina della risoluzione. In relazione infine alla considerazione che l'emendamento sul fondo di solidarietà dimostrerebbe che invece l'intervento sarebbe stato possibile, ricordo semplicemente che gli interventi a favore dei risparmiatori sono cosa ben diversa da quelli della ricapitalizzazione delle banche. Cioè, dice Padoan, ha ragione, un conto è dare soldi pubblici da mettere nel capitale delle banche, altra cosa è avere una formula, tra l'altro con soldi non pubblici, perché era il fondo dei depositi bancari, per ridurre, diciamo, il danno ai risparmiatori. Ma tanto abbiamo a che fare con un'Europa dura di comprendonio e bicefala. Invece vedo molti messaggi che dicono: avrei voluto vedere se ci fosse stato Berlusconi, se invece che la Boschi fosse stata la Carfagna. Allora, non lo so, diciamo che nel passato, cioè il governo non si deve sorprendere, mettiamola così, se c'è un attacco dell'opposizione, perché nel passato abbiamo avuto, al di là dei casi del ministro Lupi e dell'ex ministro Chienghe, anche, ricordo bene, tutta la polemica che colpì direttamente Fassino per la famosa telefonata, poi c'è un'inchiesta anche questa magistratura con consorte, lì si trattava di una telefonata, non c'era nessun legame di parentela, insomma dai. Non è che ho capito che siete giovani al governo, ma se conoscete la storia di questo paese sapete che nel passato ci sono stati scandali, inchieste, attacchi e campagne di stampa, giustamente per situazioni analoghe anche minori. Non vi sorprendete se adesso su una cosa del genere l'opposizione fa l'opposizione, nel senso, è vero che con Berlusconi non vi sarebbe stato nessun dubbio, mettiamola così, no? Nel che tipo di opposizione fare. Allora, cerchiamo di essere oggettivi. Sei al governo e ti becchi anche una rogna, una gatta da pelare, perché fa parte di quello che è successo anche agli altri governi. Non è che il conflitto di interessi si può evocare solo quando fa comodo, eh? Vabbè, andiamo sulle banche. Ringrazio il professor Mario Comana, che è docente di economia bancaria alla LUISS di Roma, nonché presidente del collegio sindacale della Nuova Cari Ferrara. Buonasera. Buonasera. Comana, mi dica subito una cosa, anzi me la dica dopo che ho il metodo e la pubblicità, perché vorrei sapere che banca ha trovato e che cosa avrebbe fatto lei con i risparmiatori, e se vuole darmi anche un giudizio su questa ambiguità europea. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. minuti. Allora, professor Mario Comana, lei che insegna economia bancaria alla LUISS di Roma ed è presidente del collegio sindacale della Nuova Cari Ferrara, una delle quattro banche salvate come banche, non come risparmiatori, che situazione ha trovato? Allora, intanto diciamo che purtroppo alcuni pochi risparmiatori non sono stati salvati, ma la maggior parte dei clienti di Cari Ferrara, come le altre tre, clienti depositanti obbligazionisti, sono stati salvati. Io capisco che il dibattito si appunti su quello che è rimasto di non risolto, ma è aritmeticamente vero che una parte piccola rispetto invece al tema dei tanti altri depositanti e anche soggetti finanziari che sono stati messi in sicurezza. Professore, lei ha ragione, ma le spiego da un punto di vista giornalistico. Sa perché il dibattito è lì? Perché se fossero stati... Le dico perché il problema è che questi non hanno capito cosa compravano. Voglio dire, ai tempi dell'Argentina, io me la ricordo bene, eravamo in diretta, però si disse subito, ragazzi, anche voi avete comprato obbligazioni che rendevano al 9%, con tutti che sconsigliavano, fatti vostri. Nessuno poteva dire che non aveva capito che l'Argentina fosse messa così male. Invece in questo caso ti trovi anche fossero 10, ma 10 a cui hai tu dato un profilo di rischio che doveva essere iperprudente, hai dato roba da Gordon Gekko, prego. Ok, come dicevano una volta i democristiani, ho fatto questo piccolo preambolo e vengo alle sue domande. Sarà breve, come democristiani, no? E sarà breve anche lei. Sì. Prego. Che banca ho trovato? Dunque, intanto parliamo della nuova Cassa Risparmio di Ferrara, la quale è una banca in ordine, pulita, perché le pendenze, le problematiche sono state rimosse e poste in carico alla vecchia. Una banca che è in grado di operare, rassicurare i suoi attuali depositanti, fare prestiti e, come sappiamo, comunque consegnarsi ad una vendita che l'autorità di risoluzione farà quanto prima possibile. La banca oggi è ordinata, pulita, funzionale e con gente che ha voglia di ricostruire la reputazione che, ahimè, certo, è andata un po' infangata, rovinata, ma c'è tutta la voglia e tutte le premesse per risalire. Visto che lei... Seconda cosa prego. Che mi ha chiesto era cosa avrei fatto con i risparmiatori. Sì. Preferisco risponderle che quello che viene proposto di fare adesso mi sembra la cosa forse un po' tardiva, e così comprende il mio pensiero, ma che ho l'unica cosa possibile da fare. Andiamo a vedere chi davvero si è trovato nella condizione di inconsapevolezza deve essere rimborsato. Chi come me, io non di quella banca, ma ho delle obbligazioni subordinate. Le ho comperate con consapevolezza, spero che vadano bene, se non sarà così sarò causa del mio male. Quindi caso per caso rimborsare chi ha appunto non acquistato in modo consapevole. La parola chiave è consapevolezza. La terzo punto che lei mi ha posto è la Germania e frena sulla protezione. Allora provo a proporle, ma come contributo al dibattito, qual è il loro punto di vista? Loro dicono: noi abbiamo messo tanti soldi nostri per salvare le nostre banche, quello che non vogliamo non è solo che voi non mettiate i vostri, questo non è tanto un vincolo della Germania ma di altri. La Germania dice: io ho pagato per i miei, non voglio dover proteggere i depositi degli altri paesi. Questo giusto per ristabilire la verità, ecco. Certo, da qui si può aprire tutta una serie di commenti che possiamo No, ma per carità, però volevo capire una cosa, lei, visto che è anche soprattutto docente di economia bancaria alla LUIS, lei l'ipotesi di proibire, abbiamo letto di tutto, le obbligazioni subordinate come vendita alla clientela, ma la convince? Perché dovrebbero già esserci regolamenti, sennò vuol dire che abbiamo operato fino adesso nella giungla e... Io so che c'è una MIFID, andrà semplificata, l'abbiamo chiesto come Sole 24 Ore in un manifesto la settimana scorsa, certo che devi fare una cosa leggibile, perché sennò, ma come si fa a dire proibiamo improvvisamente? Sembra quasi ammettere che abbiamo, come se tu dicessi improvvisamente abbiamo scoperto che l'eroina fa male, adesso la proibiamo. Allora delle due l'una, o tu spacciavi inconsapevolmente oppure ci sono già dei blocchi per assunzione di oppiacei e non c'è bisogno di proibirla, prego. Ma infatti, riprendo proprio il suo esempio un pochino provocatorio, ma va benissimo. Allora, non ci sono sostanze che fanno male in assoluto, è un tema di dosi. In un portafoglio, magari abbastanza ampio, ma perché un risparmiatore consapevole, adeguatamente informato, non potrebbe prenderli? Quindi quello che viene fatto adesso, per esempio, è innalzare la soglia minima, perché portandola a 100.000 euro, evidentemente mi sembra molto difficile che poi chi ha un patrimonio di 80.000 lo compri, o anche solo chi ha 100.000 li vada a mettere tutti lì. Quindi io, più che il divieto assoluto, credo che la soglia, cioè qualificarlo come solo per i risparmiatori con quel taglio minimo, possa essere un rimedio. In concreto, guardi, io penso che il problema si risolverà da solo, perché sarà una parola impronunciabile: obbligazioni subordinate per i prossimi anni alla clientela. Certo, poi tutto il tema MiFID ha bisogno di una semplificazione, spero per sfoltimento e non per aggiunta di ulteriori prescrizioni cartacee e formali che abbiamo visto poi hanno un po' lasciato il tempo che trovavano, perché mal concepiti e in qualche caso peggio applicati. Un'ultima domanda, ma non gliela voglio svelare, dopo il traffico. Focus Economia. Professor Comana, la domanda potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Se anche lei è d'accordo che proibire la vendita di obbligazioni subordinate, a parte il fatto che è come ammettere che adesso c'era la giungla e il mercato libero non era così, ma diventerebbe anche un'operazione un po' strana, dopodiché vorrebbe dire obbligare per forza anche chi vorrebbe comprarle a non comprarle, e relegare tutto il mercato bancario come rifinanziamento agli istituzionali che chiederebbero tassi di interesse più alti. Però, secondo lei, che cosa non ha funzionato? Non hanno funzionato le autorità di vigilanza, perché a me è sta cosa che tutti tra di loro si dicono: tu hai lavorato bene, io ho lavorato bene, io ho lavorato bene, tu non hai lavorato bene, sarà colpa della novantenne se ha comprato le subordinate della Ferrara o della Etruria o delle Marche o della Chieti. E quale norma lei introdurrebbe, se ne introdurrebbe? Guardi, anche qui devo partire un po' dall'altro punto. Di nuovo, noi stiamo parlando di quello che non ha funzionato, ma ci sono tante operazioni di investimento che non danno problemi. Quindi non confondiamo ancora l'eccezione con la regola. Però lei mi sta domandando cosa possiamo fare perché non capiti neanche più l'eccezione, che a chi gli capita evidentemente è una cosa molto dolorosa. Professore, ogni banca è diversa, però abbiamo visto i resoconti, più si avvicinava al fallimento più questi andavano o a mandare a cambiare profilo di rischio o a fare incetta di obbligazioni subordinate, no? Io capisco. Sì, purtroppo vede, questo è il punto. Il sistema di regole, secondo me, potevamo ritenerlo adeguato in una condizione di normalità. Un imprenditore, anche quello bancario, quando sente un po' di troppo caldo dietro di sé, un po' di fuoco che arriva, purtroppo si porta a spingere anche dove non dovrebbe. Quindi quello che non ha funzionato è che alla fine ci sono state delle pressioni indebite da valutare caso per caso, là dove non si doveva spingere questi prodotti. Come evitarlo? Probabilmente bisogna solo cercare di semplificare il livello di documentazione che si dà ai risparmiatori per renderlo davvero comprensibile, e vigilare anche su gli incentivi che vengono dati, formali o informali, al singolo addetto bancario che opera. Scusi, ma io capisco il risparmiatore e il singolo impiegato di banca, ma punire più duramente gli ex dirigenti e presidenti di queste banche? Perché insomma qua la gente, non dico, noi non siamo giustizialisti, però non si può vedere che adesso ci arrabattiamo in tutti i modi con soldi pubblici e questi risponderanno eventualmente all'inchiesta della magistratura. Non ci deve essere anche un principio di sanzione più immediata? Questo tocca anche le autorità di vigilanza, sì, sì. O secondo lei le autorità di vigilanza hanno vigilato bene? Allora, le autorità di vigilanza sono come l'arbitro di calcio. Il più bravo non è quello che sbaglia mai, è quello che sbaglia meno. Quindi siamo noi in grado di dire se gli errori che hanno compiuto sono a livello fisiologico o troppo? L'altro tema che non voglio eludere è quello delle sanzioni ai vertici di queste banche. Guardi, che premesso che il funzionamento della giustizia, anche quella amministrativa in Italia, è quello che è, però tutte le quattro banche stanno facendo azioni di responsabilità verso i precedenti vertici, amministratori, sindaci e direttori generali. Tutti stanno cercando di non tanto solo di punire, quello non spetta a me, ma di recuperare per quanto possibile quello che è stato fatto. Quindi il cercare di perseguire chi si è reso responsabile degli indirizzi di queste cose, le assicuro, è in atto. Ripeto, poi nel sistema italiano, dall'intenzione alla conclusione, ahimè, qualche volta c'è un oiato. C'è un salto. Sì, che nel caso dei risparmiatori è un salto nel vuoto. Grazie al professor Mario Comano, docente di economia bancaria alla LUISS di Roma. Nonché presidente del collegio sindacale della nuova cassa di risparmio di Ferrara. Vedo molti messaggi anche critici. No, sulla Boschi, per favore, però non è che posso fare la puntata. A questo punto la vicenda è di carattere politico. Ha ragione chi fa notare che non ho elencato tra le varie vicende ex ministro Lupi, ex ministro Chieng, a suo tempo Fassino con consorte, non ho elencato le richieste di dimissioni che arrivarono per l'allora ministro Anna Maria Cancellieri, quando venne ipotizzato che ci fosse una, avesse in qualche modo aiutato Giulia Ligresti, e visto che suo figlio aveva lavorato a suo tempo nel gruppo di Salvatore Ligresti. Allora vedi che, e ha ragione chi ricorda che a suo tempo il deputato Maria Elena Boschi disse in aula che al suo posto si sarebbe dimessa. Questo dico, bisogna stare un po' attenti, no? Non è che il mondo funziona così, quando pesti una cosa che assomiglia alla cioccolata e poi la gente ti chiede le dimissioni. Funzionava così quando erano l'opposizione loro e basta. Anche adesso, sempre, perché siamo giovani, belli e siamo fotomodelli, come dicono a Venezia. Eh sì. Allora, Paolo Ligresti, visto che parlavamo di Ligresti, figlio di Salvatore, è stato assolto oggi a Milano nel processo con rito abbreviato, nel quale era imputato per aggiotaggio e falso in bilancio per presunti illeciti nella gestione del gruppo Fondiaria SAI, revoca anche degli arresti domiciliari per lui, disposta dal GUP, e che ha assolto il GUP altri due imputati e la società per questa, per questo fronte delle inchieste, ed era giusto ricordarlo. La borsa, non risponderò più, ho detto la Chieng con la idem, avete ragione, scusatemi, ho citato il ministro Chieng, era la ministro idem, no, vi ricorderete, chiedo scusa all'ex ministro Chieng, ci mancherebbe. Detto questo, andiamo sulla borsa. Oggi le borse in attesa della Federal Reserve: meno 0,2 Milano, più 0,2 Parigi, più 0,2 Francoforte, più 0,70 Londra, più 0,14 Dow Jones. Euro su dollaro 1,09, dicevamo. Tra i titoli oggi in evidenza in negativo soprattutto A2A, ma era molto cresciuta nelle ultime sedute, meno 6%. In positivo Azimut più 2, Buzzi Unicem più 2, e poi 1,5 il rialzo di Finmeccanica, 1,40 quello di Campari, l'1% quello di Mediolanum, lo 0,80 quello di Unipol SAI e di Unipol come il Banco Popolare. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. A2A da un lato e dall'altro invece un po' di risveglio oggi sia su Finmeccanica che su Azimut. Prego. Sì, per quanto riguarda A2A, in parte hai detto più 51% dall'inizio dell'anno, massimi dal gennaio 2010, quindi quasi 6 anni, oggi una giornata di realizzi condotta anche dalle posizioni di qualche analista di peso, qualche broker di peso che ha consigliato di correggere su un titolo, comunque su una società ben impostata, ma su un titolo che ha corso molto, e anche una giornata sostanzialmente non positiva un po' per tutte le società di servizi di pubblica utilità, anche Snam ha corretto, la stessa Enel è stata a lungo debole e anche Terna ha perso lo 0,2%. Un po' di risveglio soprattutto per il risparmio gestito che era stato molto penalizzato nei giorni scorsi. Anima, Azimut, Mediolanum erano stati tra i più penalizzati. Tra gli industriali, bene Finmeccanica, soprattutto perché ci sono indiscrezioni di commesse importanti in arrivo, una che riguarda satelliti per il monitoraggio ambientale in partnership, in collaborazione con Talè, altre commesse, altre gare in cui Finmeccanica sembra essere ben posizionata in Canada, e ordini che hanno sostenuto anche Saipem più 0,7%. Ieri ha annunciato due contratti, uno nel Mare del Nord e uno a Panama per 180 milioni di euro, e è riuscita ad andare in controtendenza rispetto a petroliferi molto deboli. Altri titoli dopo il GR24, 349-238-6666 per scrivere gli sms, scrivere su WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il decreto salvabanche di fine novembre consegna al paese la rabbia di migliaia di italiani che avevano riposto la propria fiducia in quegli investimenti proposti come sicuri, le obbligazioni subordinate. Chi sono gli italiani che hanno fatto questi investimenti? Come potranno tutelarsi? E come riconoscere i prodotti a rischio? Come gestire il timore che altri casi del genere possano ripetersi? Come proteggere il nostro denaro? Le istituzioni finanziarie meritano ancora la nostra fiducia? Per rispondere a tutte queste domande e ascoltare le vostre testimonianze, una settimana speciale di Cuore e Denaro. Ogni giorno in diretta il commento sulle novità, sulle misure salva risparmiatori e le risposte dei nostri esperti alle vostre domande in diretta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo agli Stati Uniti, visto che le borse attendono l'attesissima e annunciatissima riunione della Federal Reserve. E i migliori e i peggiori? Beh, c'è un effetto, se così possiamo dirlo anche in maniera un po' cinica, Mosul, o meglio diga di Mosul sulla Trevi. Come ha annunciato ieri dal Presidente del Consiglio, all'Italia è stato chiesto di mettere in sicurezza la diga che altrimenti minaccerebbe la stessa Baghdad, e l'invio anche, come vedete oggi sui giornali, di forze di terra italiane per proteggere i lavoratori italiani. Bene, si parla di un contratto da 2 miliardi di dollari, l'azienda è l'unica in gara e il titolo guadagna oggi 25%, il Trevi Finanziaria. Poi KF 9,55, Fiera Milano più 9, Sintesi più 9, Bialetti più 8,30, Innovatech più 7,70. Fronte opposto invece, per quello che riguarda l'andamento di Banco di Sardegna, A2A meno 6,14, abbiamo detto Prelios meno 5,50, Biancamano meno 5%. Bene oggi in borsa anche RCS, dopo che c'è stata anche una sospensione per l'assemblea degli azionisti, sono usciti vari elementi, però l'aumento di capitale non è inevitabile, ha detto l'amministratore delegato rispetto alla delega di ricapitalizzazione per 200 milioni chiesta ai soci. È una delega che non implica la necessità di fare un aumento. Ma dicevamo, tutti gli occhi e le menti puntate sulla Federal Reserve e sull'aumento dei tassi di interesse che certificherà a tutti gli effetti l'uscita degli Stati Uniti dalla crisi del 2008. Sarebbe infatti la prima volta in 9 anni e il tasso vicino allo zero è fermo appunto dal dicembre del 2008, l'ultimo momento risale al 2006. A questo punto mi sembra, ma chiedo conferma a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, che l'unico dubbio sia su quanto aumenterà il costo del denaro, cioè lo 0,25, 0,25,50, cioè quale sarà la forchetta. Mario, buonasera. Buonasera Sebastiano, hai assolutamente ragione, l'unico dubbio riguarda la forchetta. Anche su quello ci sono delle idee piuttosto chiare da parte di coloro che seguono, come come quelli che riescono a leggere i fondi di caffè nelle menti dei governatori della Fed, e diciamo che si parla di un posizionamento analogo a quello attuale, cioè da 0 a 0,25, possiamo forse andare da 0,25 0,50, però con un bias verso 0,25, cioè l'aumento sarebbe solo di 0,25. C'è chi dice che potrebbe essere da 0,10 a 0,35, capito? E dunque è chiaro che il messaggio della Fed sarà molto chiaro nel momento in cui ci darà questa forchetta. Perché? Perché darà anche un po' l'idea del ritmo col quale comincerà ad aumentare questi tassi nel corso delle prossime riunioni del Federal Open Market Committee. Qual è la tradizione? La tradizione è che nel momento in cui la Fed parte con una politica monetaria restrittiva, gli aumenti avvengono ogni 6 settimane, cioè ogni riunione, e dunque molto rapidamente ci si sposta verso tassi più elevati. A volte il balzo era anche dello 0,50%, sì. Di modo che nel giro di un anno si aumentava di 3-4 punti e si arrivava ad avere quell'effetto restrittivo per non surriscaldare l'economia e non generare inflazione. La scommessa qua è contraria, perché la mia premessa era l'aumento normale, ma ormai, caro Sebastiano, non di siamo normale più non c'è nulla. Di normale non c'è nulla, non c'è nulla, questa dinamica della crescita non è normale, l'idea che siamo nel bel mezzo di una stagnazione secolare, già il fatto che ci sia secolare vicino ci dà l'idea della non normalità, e il paradosso ti tu dirò… Tu stai citando Summers, no, ho capito… Sì, Summers per esempio è uno dei fautori, uno dei principali sostenitori di questa tesi, e lui propone, per evitare diciamo questa idea di stagnazione secolare soprattutto sulla domanda, una serie di iniziative che lui ha battezzato inclusive capitalism, cioè ci vuole un capitalismo inclusivo, e tra l'altro questo sarà uno dei vessilli molto probabilmente di Hillary Clinton, perché anche John Podesta, che è il capo della sua campagna elettorale, è anche il presidente di un centro studi che ha pubblicato queste ricerche di Summers, quindi insomma i conti tornano. Summers, che fu segretario al tesoro con Clinton, dunque diciamo che da quel punto di vista i conti tornano, ma al di là di questo dettaglio diciamo di retroscena, la cosa interessante di cui si parla molto e di cui parlano altri è che l'America ha bisogno di riforme strutturali, riforme strutturali che non sono come quelle nostre, di cui abbiamo bisogno noi, cioè l'America è già flessibile, l'America ha già una serie di… però si parla di riforme strutturali di altro genere, non so, riforma fiscale e così via, così via. Non entro adesso Nel dettaglio. Tu adesso poi vedremo, la prova dei fatti è sempre necessaria, però tu ci hai fatto capire che ormai è tra 0 e 0,25, tra 0,25 e 0,50 con attese sono 0,35, ma è molto importante quanto ricordavi. La tradizione, ammesso che venga rispettata, perché appunto non siamo in periodi normali, è che una volta che la Fed parte con i rialzi, li faccia con una certa gradualità, ma abbastanza rapidi, ogni 6 settimane, di un quarto di punto, vedremo, in modo da portare in maniera abbastanza significativa il costo del denaro a un livello più alto nell'arco di un anno. Grazie anche a Mario Platero in collegamento con noi da New York. Ancora moltissimi messaggi sulla mozione di sfiducia da Boschi. Io non ho detto che la vicenda è analoga a quella della Cancellieri, dell'ex ministro Idem o dell'ex ministro Lupi. Ho detto solo che se sei al governo e c'è una vicenda come questa, visto che nel passato le mozioni, le richieste di sfiducia sono arrivate per vicende che coinvolgevano lateralmente i ministri, non sto facendo paragoni impropri, dico non ti devi sorprendere se tocca anche a te, non è che insomma la vita è così, anche la vita politica di un governo, no? Cioè, non è la prima volta che capita, allora non gridiamo allo scandalo se per la prima volta anche tu diciamo, ti becchi una mozione di sfiducia, cioè, del resto la situazione è talmente drammatica che è ovvio, l'opposizione sennò che deve fare nella vita, cioè, adesso fate gli scherzi, se siamo in una democrazia l'opposizione farà la mozione, poi verrà respinta in Parlamento, fine. Allora, il centro studi Confindustria è l'ultimo tema che abbiamo per questa puntata, esce con il rapporto oggi sulle stime di crescita, più bassa quest'anno rispetto alle attese precedenti, più 0,8 invece dell'1%, più 1,4 nel 2016 invece che l'1,5%. Ma la cosa importante è che parla di un vero rebus nell'economia italiana, che non decolla nonostante le condizioni esterne siano le migliori possibili. Ne parleremo di questo rebus, ma partiamo dall'indicazione della pressione fiscale e dell'evasione fiscale. 122 miliardi che bloccano lo sviluppo, il 7,5% del PIL se ne va in evasione. Se fosse dimezzata vi sarebbe una spinta del PIL del 3% e 335.000 occupati in più. E il presidente di Confindustria, nel commentare il rapporto, dice: da imprenditore il peggior concorrente è chi non paga le tasse. Chiudo questo mio intervento, che come ho detto sarà l'ultimo della mia presidenza, veramente esprimendo l'assoluta determinazione di Confindustria di operare nella direzione della trasparenza tra lo Stato e i contribuenti. Noi siamo pronti, noi ci crediamo, abbiamo preso dei provvedimenti anche contro chi non ha seguito queste regole da imprenditore io ritengo che il peggior concorrente che ho è il concorrente che non paga le tasse o evita in qualunque modo di pagare delle tasse. Ecco, quindi noi Confindustria e i suoi associati sono pronti a pagare le tasse per contribuire alla crescita civile e sociale di questo paese. Adesso il traffico e poi parliamo del rapporto con il responsabile del Centro Studi Confindustria. Focus Economia. L'evasione fiscale, nonostante, come abbiamo appena sentito, i risultati della lotta all'evasione, l'evasione fiscale è una zavorra sull'economia del paese, appunto blocca lo sviluppo, dice il Centro Studi Confindustria, e lo dice anche Confindustria, visto che abbiamo sentito Squinzi, pari al 7,5% del PIL, vi sarebbe senza, se l'evasione fosse dimezzata, quindi portata a livelli più europei, avremmo una spinta del PIL del 3,1% e 335.000 occupati in più, stimando appunto un'evasione a 122 miliardi dimezzata a 60 miliardi, che sarebbe ancora un fiorfior di evasione, ma già più vicina, ripeto, alle medie di altri paesi, penso alla Spagna o alla Francia. Questo però non spiega il titolo, diciamo la parola chiave di questa relazione sullo scenario economico, il rapporto sugli scenari economici del Centro Studi di Confindustria, non tanto il titolo risalita in cerca di slancio, ma appunto il termine vero rebus. Il vero rebus è il mancato decollo dell'economia italiana. E vorrei capire perché rebus, immagino che il rebus non sia, diciamo, la pressione fiscale, tutto tranne che un rebus, con il direttore del Centro Studi di Confindustria, collega del Sole 24 Ore per molti anni, questo per giustificare il tu, non riesco a dare del lei, a Luca Paolazzi. Buonasera Luca. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Luca, da questo punto di vista, insomma, che l'evasione blocchi la crescita, ahimè, è cosa nota, dico ahimè perché non è una novità, è uno dei nodi strutturali assieme alla pressione fiscale che, pur allentandosi, come voi riconoscete, al 43,2% nel 2017, il livello più basso dal 2011, resta alta. Ma il sentire te e voi parlare di rebus, beh, un po' mi fa tremare i polsi, nel senso che se non lo capite voi, la battuta è facile, figuratevi se lo riusciamo a capire noi. Rebus perché l'economia italiana sta avendo dall'esterno delle spinte molto forti che vengono dal cambio svalutato, dagli interessi ai minimi storici, dal petrolio dimezzato, secondo le nostre stime. Per il 2015 questi fattori valgono circa 1,9% di maggiore PIL e per l'anno prossimo circa 1,2%. Consideriamo che in termini di sola bolletta petrolifera e di oneri finanziari gli italiani risparmiano quest'anno 26 miliardi e l'anno prossimo 34 miliardi, sono due punti di PIL, quindi da qualche parte questi soldi devono pure andare, quindi ci aspettavamo un'accelerazione dell'economia, pur tenuto conto dei ritardi con cui questi fenomeni avvengono, e viceversa c'è stato un rallentamento, dallo 0,4 si è passati allo 0,3 e dallo 0,3 allo 0,2 in estate, pur avendo una serie di segnali sia qualitativi che quantitativi che dicevano che anche in estate si andava bene. Pensiamo solo alla stagione turistica che secondo gli stessi operatori è andata in modo straordinario. Pensiamo, diciamo, che gli stessi indicatori indicano un'accelerazione nel corso di quest'autunno, però perché tutto questo non si è ancora scaricato, non si è ancora appalesato, perché l'economia italiana non decolla, ecco, questo è appunto il rebus, ci sono una serie di spiegazioni. La prima è che nel nuovo mondo forgiato dalla crisi essere ottimisti è una cosa diversa di quello che era prima, e quindi tutti imprenditori e famiglie rimangono più prudenti. La seconda spiegazione è che il potenziale di crescita del paese è stato ulteriormente falcidiato dalla crisi, era già basso prima, e quindi, diciamo, la velocità di crociera normale dell'economia è quasi nulla, e questo fa sì che, diciamo, c'è una specie di zavorra che evita di esprimersi verso l'alto. Il secondo fattore importantissimo è quello della selettività del credito, che rimane molto elevata nonostante allentamenti che si sono osservati, e d'altra parte anche la cronaca ci consegna episodi drammatici riguardo a imprenditori a cui viene tolto il credito e il fido, e le banche rimangono sotto il faro. Basta pensare alla Banca d'Italia che ha chiesto alle piccole e medie aziende di credito di innalzare i requisiti di capitale patrimoniali, e alle autorità internazionali che se ne inventano una diciamo al mese per di nuovo rendere più improbabile ripetersi una crisi come questa, che però vuol dire anche, diciamo, far sì che il credito non riparta, non aiuta la crescita economica. Giusto per elencare alcuni di questi fattori, ma pensiamo anche alle costruzioni che rimangono al palo, e come dicono i francesi, quando le costruzioni vanno tutto va. Dunque ne abbiamo dire buone ragioni per pensare che l'economia italiana faccia fatica a decollare. Resta il fatto che queste spinte potenti ci sono, durano, forse le persone hanno bisogno di essere convinte del fatto che appunto non siano passeggere, non siano momentanee. Luca Palazzi, mentre ti ascoltavo mi venivano in mente però due cose. La prima è che comunque voi confermate una ripresa più forte l'anno prossimo. Noi abbiamo appena avuto un indicatore molto empirico che viene sviluppato due settimane fa, l'indicatore annuale sull'andamento dei viaggi d'affari, però è molto correlatissimo statisticamente all'andamento del PIL, e questo indicatore, il Travel Business Index, segnalava per l'anno prossimo comunque quest'anno ci ha azzeccato, prevedeva un anno fa uno 0,7 e più o meno facciamo 0,7 o 0,8, e per l'anno prossimo addirittura si spinge a prevedere un 1,6%. Al di là degli indicatori più empirici, delle correlazioni statistiche, voi confermate comunque una ripresa più forte l'anno prossimo? Sì, come detto, pensiamo già che questo trimestre sia più brillante del terzo, quindi con un più 0,4 e poi ancora uno 0,4 nel primo dei trimestri dell'anno prossimo. Il dato medio anno è 1,4, però il tendenziale è superiore all'1,5%. Questo assolutamente sì. Detto questo, rimangono dei fattori penalizzanti come l'andamento del costo del lavoro per unità prodotta, che ha drasticamente ridotto la competitività del nostro settore manifatturiero, piuttosto che basso tasso di risparmio, margini di profitto molto ridotti. Quindi c'è da lavorare molto per rimettere in carreggiata il sistema paese e farlo crescere rapidamente. La buona notizia che consegniamo sotto l'albero di Natale è che l'occupazione sale a ritmi piuttosto elevati, in linea con quello dell'economia, mentre un tempo si pensava che ci fosse bisogno di una crescita economica di almeno 2% per creare posti di lavoro, adesso invece già si osservano benefici e questi benefici si tradurranno in circa 650.000 posti creati nel triennio. Certo, alla fine del 2017 mancheranno ancora circa 1,2 milioni di unità di lavoro rispetto al livello pre-crisi, però risalire bisogna. Allora, l'altra domanda invece è di tenore diametralmente opposto. Uno potrebbe dire, al di là dei gufi, potrebbe dire che se abbiamo così tante difficoltà a decollare, tant'è che voi parlate di rebus, poi il rebus tu l'hai chiarito, c'era stato un impoverimento della struttura produttiva, quindi il motore gira, posso usare l'esempio, con meno cavalli e quindi ha più difficoltà anche a riprendere la velocità di crociera, mettiamola così, e dall'altro c'è ancora una difficoltà enorme del credito bancario alle imprese, quelle che ne hanno bisogno, non quelle che già sono messe bene. Ma uno potrebbe dire che se i fattori esterni, petrolio vicino ai 40 dollari, euro comunque sotto i livelli massimi vicino a quota 1,09-1,10, tassi di interesse ancora bassi e grandi iniezioni di liquidità da parte della BCE, ebbene, se alcuni di questi fattori dovessero venire meno l'anno prossimo o nel 2017, avremo una ripresa ancora più debole. E cioè, se facciamo così fatica con tutti i fenomeni di contorno a nostro favore, cosa succederà quando il campo da gioco sarà un po' più difficile? Sì, certo, è una domanda possibile, per noi teorica, nel senso che noi pensiamo appunto che questi valori rimangano ancora per un po'. Il petrolio è un mercato del compratore, il cambio è favorito dalle politiche divergenti monetarie Fed, BCE e dal maggior dinamismo dell'economia americana, e i tassi di interesse in Europa verranno tenuti bassi dalla BCE stessa. D'altra parte, se qualcuna di queste variabili dovesse girare in un altro senso, a parte il petrolio che potrebbe aumentare solo per una decisione di restringere l'offerta da parte dei sauditi, per il resto significherebbe che l'economia mondiale va meglio, andrebbe meglio, andrà meglio, e che l'Unione Europea pure andrà meglio dell'attesa, e quindi, voglio dire, abbiamo una compensazione sull'altro fronte. Quello che resta è che l'economia italiana ha una velocità di crociera molto bassa. Da questo punto di vista hai ragione a sottolineare come, se anche con questi fattori facciamo fatica a crescere a ritmi più prossimi al 2%, vuol dire che c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare ancora molto per rimettere in carreggiata il sistema. Allora, grazie anche a Luca Paolazzi. Una correzione: Mario Patero ha detto che di solito i tassi aumentavano di un quarto di punto ogni 6 settimane, che in questa situazione non normale potrebbe non essere così, lo dico agli ascoltatori che hanno scritto. Comunque, ancora 1 ora e mezza, sapremo cosa fa la Federal Reserve. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.